Tra i Monchenot, esercizi di stile, tradotti in italiano da Umberto Eco. Francesismi. Allora, un giorno verso mezzogiorno, egli mi è arrivato di rincontrare sulla bagnola della linea S un signor molto marrante con un cappello tutto affatto straordinario, inturato da una fisella in luogo del rubano e un collo molto elongato. Questo signor là si è messo a discutare con un altro signor che gli pietinava sui piedi espresso e minacciava di lui cassare la figura. Di dunque, tutto a colpo questo mecco va a sedere su una piazza libera. Due ore appresso lo rivedo sul trottatoio di Cour de Rome in treno di baladarsi con un copino che gli suggerì come depiazzare il bottone del suo per di sopra. Tieni, tieni, tieni.